24 Mattino. È giunto il momento 24 Mattino. Luca Telese da Roma, Oscar Giannino da Milano. Ancora non vedo il cranio lucido e possente, ma è arrivato il momento del cani e dei gatti. Gatti. Eccoci qua. Ma dicono gli ascoltatori che sottrae le telecamere. Dicono gli ascoltatori che fai colazione con la paiata la mattina, ma è bene. Sì, nel cappuccino, perché immersa nel cappuccino assume un sapore fantastico. Perché dicono allora, che si sente proprio questo accento romanesco, Torbella Monaca, la paiata. Torbella, quanto è bello andare a Torbella. Ma è il sogno probabilmente di molti italiani del nord che vorrebbero la mattina essere a Torbella e noi ce li avviciniamo. Hai visto che Salvini ieri si è presentato in periferia a Roma senza preavviso? Quindi vuol dire che mira i voti. È una manovra, secondo me sei d'accordo con lui, per quello parli romanesco. Hai visto, la regione ha deciso di fare qualcosa per sospendere l'abbattimento della casa della signora Giuseppina, novantenne. Ne abbiamo parlato ieri. Il tuo ululato, caro Oscar, il tuo grido civile ha fermato le ruspe. Speriamo. Intanto però le mie grida da anni non riescono a ottenere che il debito commerciale della Stato e fornitori venga pagato, perché come hai visto presso il 2016 siamo a 43 miliardi. Ti ricordi quando andò da Vespa Renzi a dire che entro il settembre 2014 settembre avrebbe risolto, se no andava al santuario a piedi? Ma quante cose deve fare il santuario a piedi, ritirarsi alla politica? No, ritirarsi alla politica, sono le promesse che uno spocchetta. Invece ho tenuto da parte per te, perché so che è una cosa che ti può stare a cuore. Oggi il Tempo dedica l'apertura a una cosa che tutti gli altri giornali magari mettono in una fotonotizia, una breve, sul fatto che Del Turco è stato assolto dal reato di associazione ai criminali. Bentornato presidente, dice Gianmarco Chiocci sul Tempo. E forse però una parola va spesa sul fatto che quando è arrestato titoli a 40 a caratteri cubitali, no? Aperture. Quando gli tolgono quel reato particolarmente odioso, allora una breve. Anche perché allora la vicenda è stata insomma dolorosa ma profonda, anche nel senso che non si tratta solo di un processo che ne ha distrutto l'immagine pubblica. Lui è stato in carcere a lungo, le accuse sono diventate ancora più infamanti, e dal 2008 che va avanti la storia giudiziaria, quindi sono 10 anni quasi di vita di un essere umano, di un politico distrutto, ma anche di un essere sospeso. Umano distrutto. E invece l'apertura di Avvenire fa arrabbiare alcuni degli sms che stanno già arrivando. Ricordiamo invece, per chiamare 800 24 00 24, il messaggio del Papa: a braccia aperte accogliamo i fratelli migranti. Ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia, come? Con le braccia ben aperte. Ben aperte, che dice Oscar? Beh, il Papa, tu sai che sono d'accordo. Il Papa fa il suo mestiere, io su questo non mi metto mai a considerare un capo politico di cui misurare. Il capo politico no, è il capo di una grande fede verso la comprensione e la solidarietà umana. Poi il problema delle risorse come è un altro paio di maniche, non bisogna chiederlo a lui. Ospite con noi c'è Pirozzi, il sindaco simbolo che ha guidato ovviamente la ricostruzione ad Amatrice, la protesta, e che ha lanciato un altro tema su cui si litiga da giorni sui giornali. Allora l'abbiamo chiamato qui per chiarire definitivamente la sua denuncia. Sono stati usati per Amatrice o no questi soldi degli SMS che gli italiani hanno donato pensando di aiutare voi? Sindaco Pirozzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Beh, no. No. Ah, quindi lei insiste perché sa che le hanno detto non era vero la pista ciclabile, non era vero quello che ha detto Pirozzi, ha esagerato, sta facendo campagna politica. No, Sergio Pirozzi, dica la verità su questi soldi. Quanti ne sono arrivati ad Amatrice? No, niente l'altra volta. Ma non è tanto un fatto, vede? Questa è una cosa che io l'avevo detta già il 28 di luglio ad un'altra radio. Chiaro che quello era un momento dove tanti erano distratti, pensavano andare al mare. Adesso con l'avvicinarsi della bagarre politica, questa frase ha scatenato un putiferio, venendo utilizzata da tutte le parti per. Io ho detto che non è arrivato niente, che a livello tecnico questo si poteva fare, quindi chiariamolo perché, per chi non conosce le puntate precedenti. Lei dice: se si raccolgono i soldi con la finalità aiuta Amatrice, i soldi devono andare qui, nelle mie casse, devono finire nel salvadanaio di Sergio, non devono andare all'autorità gestita dal commissario straordinario che poi allarga, crea la zona del cratere, include altri comuni e alla fine spende quei soldi per tante opere, magari nobili, ma che non riguardano Amatrice. È questo il suo messaggio? Era chiara, vede, le altre, cioè quello che verrà finanziato con la solidarietà, io penso che non si debba confondere con quello che deve fare lo Stato. Sono due binari, no, paralleli, che non si incontrano mai. Allora ben venga la ricostruzione, cioè la messa a norma della scuola di Poggio Bussone, di Rivo Tudri e di Colle Vecchio nel Lazio, ci mancherebbe altro. Ma si utilizzano altre risorse. Le giro però prima di passarla a Oscar le obiezioni che hanno fatto coloro che non sono d'accordo con lei. Dicono: sì, quella scuola è fuori dal cratere, però è stata danneggiata da quel terremoto, quindi perché non dovrebbe essere aiutata con gli SMS della solidarietà? Ci deve pensare lo Stato. Io come le dicevo prima, sono due binari paralleli. Io le dico: guardi, qui noi abbiamo la distruzione totale, cioè non c'è più niente di pubblico. Noi fino ad oggi siamo andati avanti col mondo della solidarietà, non quello degli SMS, ma io dico la prossima volta basta mettere con questo numero si aiuta Tizio, Caio e Sempronio. Basta, cioè è una chiarezza, e su questo si è montata una polemica, mi hanno messo in bocca, io ho detto che erano spariti, insomma le registrazioni sono chiare. Oscar, sei d'accordo? Forse, sindaco, mettiamola così, perché così la rendiamo ancora più chiaro a chi ascolta, sì. Perché molti credono che adesso lei, preso in difficoltà, per così dire... aspetti, le spiego. Adesso dice, però aveva detto di no. La questione... io l'ho scritto dal primo giorno di mio, mi corregga se sbaglio. Io ero convinto che avessimo appreso dai sismi che abbiamo avuto terrificanti nella storia, ogni volta con una coda di esperienze, di soldi sprecati, di emergenza che non finisce mai, di tempi diluiti fino alla follia nella rimozione delle macerie, nella via ricostruzione. Credevo che una cosa l'avessimo capita. L'individuazione dei comuni colpiti dai danni più rilevanti alle infrastrutture, alle abitazioni, all'economia doveva essere ristretta e non fare come abbiamo fatto con l'Irpinia, eccetera, eccetera. Per come la vedo io, lo stesso guaio è alla radice di ciò che porta poi alla destinazione anche dei soldi della solidarietà, cioè si sono triplicati i comuni rispetto a quelli con i danni più gravi. Mi sbaglio? No, ma è così, anche perché, e ti ringrazio per il contributo, te hai seguito anche la vicenda di quando dicevo io che tali provvedimenti dovevano andare, diciamo, in generale, non solo del mondo della solidarietà, ai comuni che avevano avuto la distruzione. Esatto. Poi sai la nostra storia, parte dall'antica Roma, c'è la tradizione e la civiltà dei clientes, allarghiamo a tutti. Io penso che certi interventi li debba fare lo Stato, perché l'edilizia scolastica è una competenza dello Stato, non degli SMS solitari. Ed è quello che dici te. Esattamente. Da 55 comuni che avevano la zona rossa, che era quello il criterio, lì lo Stato ha perso una grande occasione. Poteva fare gol ed educare l'Italia. Appunto. Dicendo: sono cambiate le situazioni. Cioè la furberia logica è che lo Stato dice: ma versate il SMS per Amatrice, poi siccome ho triplicato le scuole, i comuni, che non hai i soldi, esatto, per ripararle, allora allarga il bacino e finanzia altri. Io sto su questo con Pirozzi tutta la vita. Però Pirozzi, c'è un altro tema su cui noi l'abbiamo chiamata, perché ieri ne abbiamo discusso due ore. Qua sono arrivate decine di telefonate. Questa inchiesta che dice che ci sono stati 120 passaggi fittizi di residenza da Amatrice. Non è così. Lei lo nega? No, non è così. Ma probabilmente non è sua responsabilità, però ci sono. No, guardi, io. Alcuni hanno anche confessato. Com'è possibile? Leggiamo sui giornali. Sempre preciso, Beh, ciao Alessia, scusate. Salutiamo l'Alessia. Oh, per carità. Sentiamo anche la voce di Alessia. Sì, ciao pa. Allora dico, noi abbiamo avuto una grande intuizione, perché noi abbiamo Radio Amatrice, che per 9 mesi il sindaco parlava dalle 8 alle 8 e un quarto spiegando quali erano le procedure, quali erano i problemi sulla via vita. E io spiegavo chi aveva diritto al CAS, al chi CAS aveva diritto al SAE. Contributo e, di, sì, sì, contributo di la... autonoma sistemazione. Sì. Io spiegavo, tante persone hanno capito perché avevano fatto le domande in buona fede, voi capite che c'era una situazione, cioè lei sta dicendo non facciamo perché questo, lei sta dicendo le persone in buona fede hanno capito di avere diritto, hanno fatto il cambio residenza, hanno fatto la domanda. Ci fermiamo per la pubblicità, c'è già un ascoltatore che vuole parlare di questo, resti lì perché la questione è molto importante anche per l'Italia, non solo per Amatrice. Pubblicità e meteo. Mattino. Teresa Giannino e Cani e Gatti si al telefono con Sergio Pirozzi e sta cercando di chiarire con noi la vicenda incredibile dei 130, secondo i magistrati, trasferimenti fittizi per ottenere il CAS, contributo che spettava ai terremotati con la casa distrutta. Allora, sindaco, su questo io ancora non ho capito, sa, no, che... guardi, lei dice, lei ha spiegato per radio come si accedeva al sussidio. No, io parlo da un tecnicismo che tanti non possono capire. Allora, il requisito per accedere al CAS non è la residenza, ma il domicilio continuativo. Abbiamo spiegato queste cose, a differenza dell'Aquila, quando le prime inchieste sono partite 6 anni dopo, noi tutte le situazioni che a nostro modesto avviso erano illegittime le abbiamo trasmesse immediatamente noi ai carabinieri, alla Guardia di Finanza. E ci dice un numero, quanti erano quelli che illegittimamente, secondo lei? La procura dice 120. Secondo lei quanti erano? Io faccio le situazioni, secondo me, da attenzionare in maniera seria per quello che riguarda il mio comune, erano 80. Quando finivo l'appello radio che c'è stato per 8 mesi, io poi concludevo con un detto popolare che la spiega: chi vuole Cristo se lo prega. Io me lo traduca, diciamo, cioè, che cosa vuol dire questa disposizione? Se chi continua a sbagliare poi dovrà rispondere a qualcun altro. Quindi secondo lei 80 erano legittimi, quindi a differenza di un 120 sono 40 legittimi? No, allora i nostri sono 100. Perché io devo rendermi tutto. Sì, poi altri sono del comune a fianco. Gli altri, ma non lo so, insomma. Bene, i suoi sono 100 gli illegittimi? O illegittimi? Sì, poi dopo. Quindi 100, ma non è molto distante. Una percentuale. Quanti sono quelli illegittimi secondo lei? Scusi, per capirlo bene. Ma guardi, il totale di chi usufruisce del CAS sono intorno a 1000 persone. Ecco, e secondo lei 100 sono illegittimi? Sì. Quelli dicono 120 che sono del comune a fianco. Oscar, mi pare che sia comunque una cifra abnorme. 1 su 10 ha preso illegittimamente 900 euro. No, ma non solo 900, perché dipende. Sì, dal nucleo, 400, o 400 a seconda di quanti sono i familiari a casa. Sì. Però è grossa come cifra. E cioè hanno dichiarato una cosa che non era vera. Sindaco. Dico io che chi vuole Cristo se lo prega. Noi abbiamo dato sempre le informazioni giuste. Ma chi poteva fare cosa e chi non lo poteva fare. Ma non fare me la sto prendendo con lei, no, sto notando. Io sono arrabbiato. Cioè, immagino che saranno arrabbiati anche i suoi concittadini con questi signori. Ma più che altro io, vedi, ieri io ho sentito la trasmissione televisiva dove ho intervistato un mio concittadino, diceva: il sindaco l'ha sempre detto, lo diceva sempre per radio, spiegava come e chi aveva diritto. E questo perché ho avuto la grande fortuna della radio, che è un'informazione, che è un mezzo di informazione straordinario, perché è arrivato in questi 13 mesi in tutte le case. Poi voi lo sapete benissimo, l'essere umano è fatto di brave persone, è fatto di cattive persone. Io penso che il fatto che a 13 mesi da un evento tragico come il nostro, perché siamo ancora in mezzo alle macerie, allora, aver contribuito a questa cosa sia un segno di correttezza, di collaborazione, perché noi vogliamo che le cose siano fatte bene nel rispetto della legge, nel rispetto della solidarietà che noi stiamo avendo ancora oggi da tutto il mondo. Allora, Fabio da Macerata, pronto? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Vorrei prima di tutto, visto che c'ho un aggancio su quello che ha detto recentemente Pirozzi, cioè chi vuole Cristo se lo prega, significherebbe che ciascuno tiri l'acqua al suo più che quello che ha detto il sindaco. E mi sembra che il sindaco sia particolarmente bravo a pregare il suo Cristo rispetto agli altri sindaci di tutto il cratere. E mi riferisco a un grafico pubblicato, non so, un mese e mezzo fa dal Corriere della Sera, dove risultava che su 746 necessità di moduli abitativi che c'era nel Lazio, il Lazio ne ha ricevuti 328. Le Marche su 2000 e non si sente bene. 45, e su 2045 ne ha ricevuti 26. L'Abruzzo su circa 200 ne ha ricevuti uno. L'Umbria. Guardi, purtroppo lei sta parlando, l'audio va e viene, mi dispiace Fabio, così è una sofferenza per tutti, ma la prima battuta è arrivata a segno. Prima di un altro ascoltatore, Oscar. Ma io credo semplicemente che l'estensione dei criteri discrezionali è il motivo che al basso poi spinge i furbi. Quando vedranno tutti quanti che c'è uno Stato che fa una scelta rigorosa delle aree e non le estende, per primi non tenteranno di approfittarne. Purtroppo, come dice Douglas North, per metterla elevata, premio Nobel, le istituzioni contano. Per metterla in termini popolari e semplici, gli cattivi esempi dall'alto vengono vastamente copiati in basso. Sindaco Pirozzi? Sì, no, ma io questo qui l'ho detto, concordo. Disse a gennaio, ripetuto a febbraio, negli ultimi tempi anche Oscar lo sa, della zona urbana franca, è questo, c'è chi deve educare dei comportamenti giusti. Allora, poi, sì. Amedeo da Roma, perché vogliamo chiarire questa cosa, sono arrivati anche altri messaggi. Non è che dicevamo che i soldi devono andare solo ad Amatrice. No, però anche il sindaco Pirozzi prima diceva le aree del cosiddetto cratere, cioè quelle che sono colpite dal sisma e non aree esterne al cratere. E poi il sindaco Pirozzi ha detto: se vogliono riparare una scuola che comunque è stata danneggiata per effetto del sisma, ma fuori dal cratere, usino i soldi dello Stato. Amedeo da Roma. Diciamo che più o meno avete risposto. Buongiorno a tutti, buongiorno Oscar e tutti. La cosa, ma perché salutate solo Oscar? È il vostro idolo. Sono pazzo in gelosia. Purtroppo lo sento da anni, mi ha devastato. Ha devastato? Sì. Anche educato. Esatto, è vero. Diciamo, la cosa che mi ha un po' impressionato è che cratere, non cratere, zona rossa, non zona rossa. In questo momento io sono d'accordo che vada separato benissimo ciò che è dello Stato rispetto a ciò che viene dalla solidarietà. Ciò che viene dalla solidarietà però mi fa impressione, in un posto dove i muri sono crollati tutti, tirarne su dei nuovi e sbagliati. Questo mi ha fatto un po' impressione. Poi certo, non farci marciare le persone, però se qualche spicciolo di quelli che noi abbiamo versato, mangiando pasta alla matriciana per tutte le vie di Roma, o andando alle cene degli amici, o mandando gli sms, va su altre scuole disastrate o altre famiglie ne hanno bisogno, che stanno 500 metri oltre una linea, secondo me va bene. No, però scusi, però intendiamoci, perché sennò, ripeto, il relativismo, tutto diventa, sembra che l'informazione esageri, chi denuncia i furbi esagera, e tutti ci troviamo poi d'accordo nello stemperare tutto. E questo paese è così, relativizzando il tutto a nulla, non si capisce mai e non c'è mai nessuna lezione chiara. No, scusi un secondo. Se c'è un sisma, c'è una raccolta di solidarietà che sfrutta l'emotività, il fatto che ci sentiamo impotenti di fronte al dolore, alle vittime, alle case abbattute, ecco, quella frutto di quella raccolta non può andare, sono finalizzati, non può andare alla scuola di un paese che sta a 150 km, perché a decidere che va lì è il politico che ha esteso il numero dei comuni per dire c'ho le elezioni, e da questo, dalle risorse straordinarie stanziate per l'evento, le infrastrutture, le strade eccetera, io mi allargo un bacino pluriennale di spesa pubblica aggiuntiva che amministrerò io. Ecco, questo è l'errore di cui stiamo parlando, riguarda la finalità dei soldi raccolti con gli SMS, come purtroppo riguarda l'estensione che è avvenuta sotto la gestione commissariale dell'intera area su cui vanno le spese che per anni verranno finanziate. Questa roba purtroppo abbatte l'efficacia degli interventi necessari proprio per rimuovere le macerie laddove le macerie ci sono, e infatti sono ancora là. Ritarda i tempi per riprogettualizzare le aree urbane disastrate, e infatti non abbiamo fatto passi avanti. È l'eterna cosa di dire italiani, e su, approfittiamone, dai, e su, e c'è il voto, e che siamo amici. No, è questo il problema. Non riusciamo mai a essere rigorosi, mai. E purtroppo di sismi in cui abbiamo fatto questo errore ne abbiamo un'infinità alle spalle. Ogni volta la stessa cosa. Sindaco Pirozzi, continua ad arrivare dei messaggi. Qualcuno chiede: ma quel contributo, il CAS, viene, la decisione di chi lo deve ricevere viene materialmente decisa dal comune? E come funziona? C'è una certificazione del cittadino, certifica, poi sono stati chiesti dei documenti aggiuntivi, e poi sulle situazioni che non sono chiare sono state trasmesse immediatamente a chi poi... Cioè li avete denunciati voi? È certo, è regolare, anche perché se no non è che uno può dire certe cose e poi smentire quei fatti altri. Cioè, quindi lei sta dicendo che queste 100 nel suo comune, lei ha sentito puzza, i suoi uffici avete sentito puzza di bruciato, ma e io voi l'avete... Un'altra cosa, che poi noi, perché lì c'era l'autocertificazione, per cui voi lo sapete benissimo che ha un valore di legge. Non ci siamo fermati qui perché abbiamo chiesto ulteriore documentazione. Io le dico che tantissime persone, una volta che si sono accorti dell'errore, ascoltando Radio Amatrice, hanno restituito i soldi. Tanti hanno continuato in maniera, secondo me, sbagliata, errata, e poi ne risponderà il magistrato. Tanti hanno continuato ad affermare, portando anche delle bollette giustificative, ma voi sapete che le bollette contano poco, e non in parte hanno continuato, per cui ogni cittadino poi si assume le sue responsabilità, come è giusto che sia. Io per fortuna, per la prima volta, ho sentito una persona come Oscar che ha detto le cose chiare. Bene. Perché poi il problema è quello che ha detto Oscar, insomma, allargarlo comporta dei benefici politici, significa dare qualcosa agli amici degli amici, e questo non educa, e questo non educa, fermo restando che chi parla magari non sa che qui non c'è più niente, insomma, che c'è la distruzione totale. Non è un fatto di egoismo, ma è un fatto di rispettare, riguardo alla storia degli SMS, quella che era la volontà del popolo. Anche se io vi do un'indicazione che non l'ho mai detta, che fino al 6 di ottobre, per cui il sisma era solo di Amatrice, Accumoli, Arquata, parliamoci chiaro, erano stati raccolti 17 milioni di euro. Bene. Io parlo prima del 30 ottobre, 17 milioni di euro che le persone hanno dato con quella destinazione d'uso. Devono dare chi aveva avuto i morti, la distruzione. Poi, bene, ripeto, tecnicamente la cosa si può fare, ma grazie, sbagliata. Grazie sindaco. Oscar, il grande tema del giorno, Ryanair. Eravamo incredibile la velocità con cui cambiano le cose in Italia. Solo 2 settimane fa Ryanair era in corsa per comprare all'Italia una parte, forse quasi tutto, il primo vettore italiano. Adesso taglia i voli, taglia le rotte e rinuncia ufficialmente a qualsiasi proposta di intenzione, come si dice nel gergo tecnico, sull'acquisto di Alitalia. Ebbè, ma in questo caso non è la rapidità di una vicenda italiana. Io credo che la giornata di ieri, cioè il 27 settembre, l'annuncio ufficiale del nuovo programma di annullamento fino a marzo dell'anno prossimo di migliaia e migliaia di voti, la sospensione voli. Di voli, la sospensione totale di una ventina di rotte, non solo diminuite ma proprio sospese, sine die. Ecco, questa data, il 27 settembre 2017, è una data che, non esageriamo, definiamola storica, perché vero. È la dichiarazione ufficiale dopo la prima botta che lo aveva messo nell'angolo del ring a O'Leary e Ryanair, cioè la compagnia che ha, tra virgolette, fondato nella storia il modello non del low cost, del very low cost, cioè dello stress infinito di tutte le componenti di costo per abbattere il biglietto ed espandere a centinaia di milioni di persone la possibilità di volare. Ecco, la data di ieri segna la fine di quel modello, perché le altre compagnie low cost, ma su un segmento più elevato rispetto a quello bassissimo di Ryanair, come EasyJet, come Norwegian, che ha iniziato a vedere nel lungo raggio di fare anche a minor costo rispetto alle full service, si dimostrano meglio in grado di gestire l'esplosione del traffico aereo, mentre O'Leary ha portato Ryanair contro un muro. E vedrai che da questo non è solo la mancata offerta dall'Italia, il mercato internazionale avrà un profondissimo impatto che vedremo nei mesi di questa cosa, che O'Leary è finito in una condizione che mai avrebbe immaginato. Non vedremo mai più il sorriso sprezzante sulle sue labbra, che invece lo ha contraddistinto. Quindi è una cosa, secondo me, mondiale. Invece fammi dire due parole su questa cosa. Perché i giornali italiani, secondo te, credono che sia una grande vittoria questa cosa ridicola trattata tra STX e Fincantieri, per cui ci hanno dato in prestito la quota di maggioranza? Cioè, cari ascoltatori, un gruppo come quello... Abbiamo raccontato molti dubbi anche. Ora ho letto che sul fatto, per esempio, si dice che tutte le commesse militari restano fuori da questa partita. Cioè, ci sono molti dubbi. No, in 12 anni può cambiare un settore che ha dei margini strettissimi, come la costruzione di navi da crociera. Andate a vedere quanto bisogna investirci e quanti pochi soldi ci fanno. In 12 anni può cambiare tutto, e l'Italia si è vincolata a 12 anni di condizioni che verranno verificate ogni X mesi. Cioè, è una cosa che non sta in piedi. Si è già litigato, i giornali lo tengono tutto basso, si è già litigato su chi fa il presidente e il direttore generale. Perdonatemi, il nostro mestiere è dire le cose come stanno. Io capisco che Gentiloni si sia trovato in una condizione meglio trattare e negoziare, però questa roba è nata male e, datemi retta, finirà peggio. Poi ero molto curioso di sapere, ma tu stai con Corbyn, che ieri ha fatto questa trionfale conferenza perché è in ascesa in Gran Bretagna leader, ma sei con Corbyn che vuole tagliare, che vuole aumentare le tasse sui robot, o sei con Trump abbattere le tasse in America? Ma Corbyn ha copiato la proposta di uno dei più grandi capitalisti del mondo, come sai, uno dei gestori di quel settore, che dice che ci deve essere la tassa sul robot perché toglie un po' di lavoro agli operai, alle persone normali, al PIL, al prodotto interno. Ma ti pare che l'automazione toglie al PIL? Ma cosa dici? Sì, cosa dici? No, toglie al lavoro umano. Questo non c'è. Come? Toglie lavoro umano. Allora, quando? La sostituzione è il tema di questi anni. Poi non lo può negare. No, è il tema puoi da negarlo. Chi c'è il telaio meccanico. È uscito un bellissimo libro. Siete che ti consiglio da di sempre. Non è mai diminuita l'occupazione con l'automazione. Mai. Ogni volta che guardi una biglietteria automatica devi sapere che prima c'era i turni di quattro persone che lavoravano dietro quella carretta. Questo è un fatto. Questa è una storia, nel senso che lo dice quello che fa il robot, che ha bisogno di portarsi dietro un po' di informazione corretta. Ma scusami un secondo, è solo informazione non corretta. Dalla prima rivoluzione industriale con i telai meccanici e non manuali, ogni volta questa storia viene tirata fuori, diminuiranno gli occupati. Sono aumentati gli occupati, b, si è alzato il reddito medio pro capite, c, si sono alzati i consumi, capisci? Ma guarda, non a caso li stiamo finanziando con Industria 4.0, stiamo finanziando come paese Italia, stiamo spendendo dei soldi per finanziare il rinnovamento tecnologico delle imprese italiane. E perché, detto questo, perché è una buona cosa per crescere? Ma che ci sia sostituzione di lavoro, quindi non è che è sbagliato farlo, ma che questo produca sostituzione di lavoro è innegabile. Ma la sostituzione di fatto, non lo è la indagini diminuzione del ministero. No, lavoro che fanno gli uomini lo fanno delle catene automatizzate. Cambia la qualità del lavoro, cambia le qualifiche del lavoro, diventa un lavoro diverso, ma diventa più lavoro e meglio pagato. Allora, se è più lavoro e meglio pagato saremo contenti, perché non siamo ideologici, ma non è così, lo dicono alcuni dati. Spesso dove c'erano 5 operai, ma non puoi contraddire la storia dello sviluppo industriale e dirmi che non è vero, che c'era più occupazione e più redditi ai tempi dei lavoratori tessili manuali. Ma dai, ma non contraddico nulla. Dico che benissimo. Quando, allora diamo questa cosa, vediamo se sei contrario. Quando la sostituzione produce cancellazione dei posti di lavoro, forse è un problema, bisogna porsi. Certo, sarebbe curioso che uno dà l'incentivo per mettere il robot e poi chiede la tassa perché hai messo il robot. Questo sarebbe ti rendi un conto, po' curioso, no? Questo è un po' folle. Bravo, ecco, questa mi sembra che sia la migliore chiosa, perché facciamo la prima e vuol dire che non è vera la seconda. E infatti la seconda è ideologia, che da sempre sentiamo è la morte del cervello. Matteo Ricci, che ha atteso questo nostro siparietto, sapete che è il sindaco di Pesaro, è uno dei leader di prima linea del PD renziano ed è anche il vicepresidente dell'ANCI. Pensate quante cose insieme e in non un vorrebbe solo le tasse sui robot come Corbyn, amico tuo. E ora sentiamo che cosa dice. Sei d'accordo con Corbyn, amico mio, o con te? Intanto buongiorno a tutti. No, io credo che è normale che ci sia un po' di paura davanti ad ogni trasformazione, però la storia dà ragione a Giannino, nel senso che ogni modifica in termini tecnologici, avanzamenti in termini tecnologici, ha cambiato il mondo del lavoro. Lo ha cambiato spesso e volentieri in meglio, e quindi credo che anche questa volta avverrà così. È chiaro che bisogna prepararsi, sono fondamentali gli incentivi alla modernizzazione del sistema paese, l'industria 4.0 va in questa direzione, anche perché non è che noi decidiamo di andare in questa direzione, se l'innovazione tecnologica va in questa direzione ci vanno altri paesi, quindi o l'Italia al passo altrimenti rimane indietro, si mette all'angolo. È fondamentale che il paese spinga in questa direzione e questi incentivi sono importanti per tante imprese per essere competitive nel mondo, e siccome gran parte della nostra economia si basa sulle esportazioni, se non sei competitivo nel mondo sei finito. Dopodiché è chiaro che probabilmente aprirà scenari nuovi su lavori nuovi. Quali saranno i lavori nuovi? Questo è il punto. Appunto. E quindi bisogna concentrarsi su quello. Sull'offerta formativa nella scuola, nell'università italiana, sì, che invece è arretrata. Certo, però, se prendiamo il campo della telefonia, forse l'ultima rivoluzione che è in atto. Quanti posti di lavoro sono stati creati nel campo della telefonia che prima non c'erano, no? Nel campo degli smartphone, nel campo dell'informatica. Sano riformismo che non ha paura del nuovo. E quindi evidente. Siamo contentissimi. Però quando va in quella direzione lì, non sì, è che sì, può, però quando escono i quattro bigliettai di 50 anni vengono espulsi dalla biglietteria automatica, che è una forma di progresso, poi bisogna anche preoccuparsi di che fine fanno quei quattro bigliettai, perché non è che diventano, come mi scrive qualcuno, diventano tecnici manutentori della biglietteria automatica, hanno 50 anni, no, è demagogico dire quelli si possono riqualificare, non è così, quindi bisogna porsi il problema di dove vanno, come vengono reinseriti. Le faccio un esempio molto concreto della mia generazione. Mio nonno faceva il minatore in Belgio. Non è che l'innovazione tecnologica in quel campo non ha comportato posti di lavoro nel settore delle miniere, li ha cambiati, per fortuna muore meno gente, per fortuna fanno lavori meno faticosi, anche se è ancora molto faticoso lavorare in miniera. Cioè, se noi guardiamo la storia è sempre andata in quella direzione lì, credo che anche questa volta andrà in quella direzione lì. È evidente che dei rischi, soprattutto nella fase iniziale, ci sono, e ci sono per coloro che difficilmente riescono a riconvertire il lavoro che hanno fatto per una vita in un'altra attività lavorativa, questo sicuramente c'è. Dopodiché se il paese cresce, credo che alla fine le opportunità di lavoro ci saranno per tutti, quindi l'obiettivo vero che abbiamo nei prossimi mesi è consolidare questa crescita che c'è, che finalmente c'è, che va consolidata, resa più strutturale. No, ma poi c'è un punto di fondo, è la scelta di che tipo di politica uno vuole, e lo dico senza giudicare nessuno, questo si può declinare qualunque sia la propria area culturale di appartenenza. C'è una maniera di impostare la politica che cresce in questi anni in tutto l'Occidente, a casa nostra, come in America, come in Germania, come in Polonia o in Ungheria, che è quella di farsi imprenditori della paura e dire mio Dio, verrete travolti, votate me e io vi proteggerò. E c'è chi invece dice, e la trasformazione è complessa, bisognerà cambiare le politiche attive per il lavoro, il sostegno anche per il reddito, la riqualificazione dell'offerta. E allora, stai arrivando sul la fatto via riformista, basta che dici questo, basta che dici questo, sei venuto su posizioni riformiste. E volevo dire una cosa a Ricci: ci sono ancora gli echi dell'intervista di D'Alema al Corriere della Sera. Oggi D'Alema scrive una lettera al Corriere della Sera per precisare la sua posizione. Dice: non ho detto che sono contro un'alleanza con il PD. Come sa chi ha letto l'ottima intervista di Cazzullo, questo dice D'Alema, ho detto però che non ci si può alleare con il PD finché non cambierà posizione su il Jobs Act, sulle pensioni, cioè sulle questioni che noi consideriamo vitali. Come legge questa precisazione lei, Ricci? come un'apertura. Mi pare intanto che D'Alema abbia bisogno costantemente di dimostrare che in quel campo il capo è lui e non è Pisapia, quindi intanto fa queste interviste per insomma spiegare chi ha in mano la partita, al di là dell'aspetto diciamo mediatico di chi parla nei palchi. Questo mi sembra il suo primo obiettivo. L'altro, secondo me, per noi alla fine è un elemento di chiarezza, nel senso che dovrà far emergere le posizioni di Pisapia. Io non credo che Pisapia condivida questa posizione. Io penso che Pisapia voglia costruire un centro-sinistra. E oggi abbiamo dei retroscena che parlano di una scissione, lo abbiamo ricordato sul foglio, si parla addirittura di una scissione possibile di Pisapia che esce dai Bersagnani e fa un nuovo movimento. Ne sa qualcosa, Ricci? Io penso da sempre che se Pisapia avesse fatto una cosa del tutto nuova, fuori dagli schemi del passato, che ricalcasse la sua esperienza, chiamiamola così, arancione del Comune di Milano, avrebbe avuto molto più appeal elettorale, avrebbe perso molto meno tempo dietro tanti. Quindi secondo lei avrebbe più spazio politico? Questo è interessante. Assolutamente sì, anche perché notizia. A quel punto, sì, perché è evidente che se lui avesse fatto un'operazione del genere, l'interlocutore naturale era il PD, come lui ha sempre detto. Molto chiaro. E questo detto dal vicepresidente del PD è importante. Oscar, a te l'ultima parola, ci dici un bel magari? Allora, magari vivere in un paese in cui, oltre a criticare gli accordi tra professori universitari per le cattedre, quando c'è un concorso truccato in magistratura come quello del 92 non finisce nel nulla, perché i magistrati non li può toccare nessuno. Oggi c'è un giornale che fa un articolo su questo, mi ha fatto girare molto le scatole. Magari!